un problema, non c'è, forse dell'emissione della... Ah, lui dice no, che non c'è il problema effetto serra. No, secondo me è il padre di Prodi, no, io penso... No, perché sì. La cosa è solita. No? È solita, sì. Nel senso che bisognerebbe che lui lo dicesse su una rivista specializzata che gli accogliesse un lavoro scientifico. No, lui se dice che non ci sono dati scientifici per affermare che c'è, hai capito? Sì, ma questa è veramente una cosa sulla quale bisognerebbe lottare. L'unica cosa che poi dice però il pianeta va salvaguardato, ecco, questo lo dice. Parla anche proprio dei rifiuti, per dirvi, dei gas inquinanti, però il problema CO2, incremento dell'effetto serra, non lo vede. Non lo vede? No, ma come lo faccio? No, ma perché bisognerebbe chiedersi chi è un climatologo, è un meteorologo, bisogna vedere. Il titolo scrive su un quotidiano. Sì. Se ha pubblicato dei lavori sulle riviste di settore che gli hanno accolto i reti, gli ha fatto delle misure, cosa ha fatto? Chi è? A quale titolo parla? Sì, perché lui parla, dice che solo che gli altri non hanno fatto danni, però non dice i suoi, questo è vero. Si può esprimere un'opinione così? Cioè, c'è il 90%, il 99% degli scienziati che scrivono sulle riviste di settore, che giornalmente si occupano di questo, ci sono enti, quindi... che dicono che i cambiamenti climatici sono... E poi arriva uno, sì, che fa l'esperto e scrive sul quotidiano e fa delle affermazioni in contrasto con tutta la comunità scientifica che quotidianamente lavora su questo e lo pubblicano. Sì, vabbè, come intervento, però per sentire l'altra campana, perché il maggiore spazio era al Gor, lo so. Però... qual è l'altra campana? Ah sì, l'altra campana, sì. Ma c'è una parte, c'è la comunità scientifica e dall'altra chi? Cioè c'è la comunità scientifica che fa delle obiezioni, insomma, ma dovrebbe farle sulle riviste specializzate e poi dovrebbero raccontare qual è il dibattito all'interno della comunità scientifica, perché altrimenti veramente... Sì, no, per dirti com'era, sì. Scusate un attimo. Prego. Ragazzi, mi divento sempre più lento, ora non trovo la penna, ora che trovo una cosa in apertura. Questo mi piace, te lo ridò, poi magari. Sì, l'ho letto e comunque poi me lo allora, seguiamo quell'ordine del giorno che sera. Quello di. Sì. No, te lo... No, va bene, tanto poi so dove abiti, se voglio. Ormai so tutto. Poi ci incontriamo, insomma, va bene. Allora, vediamo un po', seguiamo quell'ordine del giorno. Sì, ce l'abbiamo. Che, sì, io ho tutto. Tutto ce l'hai? Sì. Yeah. Ok. Questo era quello che diceva la Priarolo, che aveva, era l'allegato. Vabbè, quello vedrai. Okay. Però non c'entra poi in realtà con queste. Sì. Vabbè, insomma, poi vedrai. Inutile. Allora Roberto, tu che dici? Dai tu inizio. Ma se parlavamo prima con Lorenzo del tempo, c'è una scadenza, mi sono autoimposto questa scadenza, quella di dire all'associazione Creta, che organizzerà dal 4 all'8 dicembre una scuola sulle energie rinnovabili a economia. E loro hanno... Allora, io sono andato a un loro incontro introduttivo alla Limonaria, che non è di merito, e lì c'era uno sconto, c'erano dei bollettini in cui al posto dei 350 euro, no? Uno poteva andare dal 4 all'8 con 150. Allora, una prima idea era questa, di fare una colletta tra di noi e mandare uno o due di noi a prendere appunti, a prendere video, quello che c'è, a fare domande. La seconda proposta che mi ha detto uno di questi collaboratori, poi me l'ha confermato un'altra ragazza che fa parte della stessa associazione, è la seguente. Una persona di noi può collaborare con loro e intanto si segue l'evento in maniera gratuita. E questa era la mia seconda idea. Quindi io entro stasera o domani, comunque questa settimana, devo dare una sorta di risposta a quello che vogliono fare, perché loro devono sapere quante persone parteciperanno per regolarsi su... Come ho detto via email, queste persone prendono soldi, primo perché gli intervenuti, i professori, installatori, ingegneri, architetti, vogliono dei soldi, perché questi durano tutta una giornata, non è un'ora. Quante ore sono nel corso? È tutta la giornata. È tutta la giornata, perché l'ho visto per tutta Italia. Infatti lo propagandano anche, come vedete, Pisa, hai capito? Perché vengono da altri... E loro dicono che si prendono pure questi soldi perché vogliono essere indipendenti da enti o aziende particolari. Perché ci sono queste sponsorizzazioni, queste cose. Loro vogliono essere indipendenti. E sono ragazzi come noi. C'è anche Beniamino, c'è un altro ragazzo che fa economia. Mi sa un'altra ragazza che fa economia. Un'altra ancora. 4-5 ragazzi. Io ho avuto modo di contattare... soltanto uno dei due intervenuti a quell'evento gratuito alla Limonaio, che è l'ingegnere Morellano, fa parte del DES, è uno di quelli che fa parte di quel gruppo, e mi sembra abbastanza interessante, perché è molto gentile, mi ha dato anche la presentazione di PowerPoint, con dei dati che io ignoravo, invece è molto utile. E questo perché lo dico? Perché è uscito in questa riunione anche l'esigenza di un approfondimento, di una certa competenza, professionalità. Giovanni disse una cosa interessante, che l'argomento è molto complesso, no? Perché non implica soltanto qualcosa di intellettuale, ma c'è anche qualcosa che riguarda la chimica, l'installazione pratica, tecnica di queste cose. Qui bisogna sapere implicazioni legislative. Poi altra cosa, per quanto riguarda le collaborazioni con gli altri, io ho avuto modo di contattare Pallante soprattutto l'ho contattato per avere delle delucidazioni sul suo rifiuto a candidarsi in Piemonte, e lui mi ha mandato quel documento, mi ha fatto vedere la risposta che ha dato a chi l'avrebbe appoggiato. E mi è piaciuto, diciamo, molto coerente. Poi mi è piaciuto che in genere un capo non deve dare conto agli altri, invece un leader sì, e infatti prima di prendere la decisione è andato in consiglio del movimento per la decrescita felice, e in quella sede ha deciso insieme agli altri cosa fare, e questo è molto positivo come cosa. E poi volevo chiedere, questo non c'è stato modo perché poi era impegnato, di chiedere se lui conoscesse qualche altra realtà qui nelle vicinanze che può essere interessata a questo progetto di circolo. E poi ho mandato un'email a questa, non mi ricordo come si chiamasse, comunque una che fa parte della rete Transition Town italiana, che è a Lucca, è quella più vicina a noi, e ho detto cosa state facendo, magari si può interessare una collaborazione. E li vedo attivi dal loro sito, li vedo sì, abbastanza attivi. Senti, ma tu potresti andare tu allora, quella seconda alternativa, diciamo, gratuita, quella sì. Potresti andare te? Sì, certo. Sarebbe fantastico. Tra l'altro così, in grandi linee, però sarebbe interessante anche che un corso come questo magari si potrebbe pensare di stabilizzarlo come corso post diploma, o magari, che ne so, affiancato nelle scuole superiori, cioè si potrebbe collaborare con loro. nel senso di fare un modulo e chiedere alla nostra, e cominciare, noi potremmo cominciare noi alla nostra scuola e dire c'è questo corso, c'è questo ente esterno, dovremmo trovare dei finanziatori e i ragazzi che di quarta, di quinta interessati, sì, un modulo di 8 ore potrebbero seguirlo. Non vorrei che fosse troppo tecnico. Che ma io... Sì, no, no, potrebbe andare bene, faccio la parte del... perciò è importante. Potrebbe essere anche questo, non del, attraverso lui conoscerlo meglio il corso. Sì. Da quello che ho visto, no, diciamo, si adatta tantissimo alle conoscenze di fisica, di matematica, di ragazzi di quarta, di quinta liceo. Il mio punto di vista è che anche se fosse molto tecnico, non sarebbe un problema, anzi, anche perché poi... tecnico, informativo, insomma, andrebbe bene, però vabbè. Poi si potrebbe, se fosse così, si potrebbe pensare anche a un riadattamento, potrebbe avere una funzionalità anche di orientamento. Sì, come no? Che io, anche parlando con Nicola, così, l'idea che per il liceo, può essere per tanti altri, di dargli anche una caratterizzazione, no? Cioè, che si possa dire al liceo scientifico Buonarroti, tra le altre cose, ti insegnano a vedere tutto ciò che riguarda appunto la ristrutturazione energetica, le nuove le tecnologie, diciamo, che mirano al risparmio energetico. Sì. Cioè, che la scuola, anche dal punto di vista dei laboratori, sia, prendesse questa, sì, una, questa posizione. Prendesse, diciamo, una sorta di piega in questa direzione, cioè, consapevole del fatto che c'è questo periodo che si sta vivendo, un periodo particolare, no? di grande transizione, no? A cominciare dai cambiamenti climatici, eccetera, per poter avvertire i ragazzi, in qualche modo, avvertire, tra virgolette, che in qualche modo tutto ciò che riguarda le tecnologie legate ai combustibili fossili o alle tecnologie legate all'aumento, che mirano solo all'aumento della produttività, diciamo, appartengono a un mondo che, a un mondo che dobbiamo lasciarci alle spalle. Quindi nella loro formazione bisognerebbe che cominciasse a venire fuori chiaramente da più punti di vista all'interno del liceo, perché sì, è un liceo, diciamo, che fa cultura, che cominciasse a venire fuori proprio per questi aspetti, non so, l'insegnante di scienze fa vedere come, insieme a quello di storia, noi chiaro, sì, sì, come no. No, fa vedere come nella rivoluzione industriale, sì, gli ultimi 200 anni, nella rivoluzione industriale, cui ci sono sì, dal carbone si è passati al petrolio, cioè dal legno al carbone al petrolio, si fa vedere come negli ultimi 200 anni si è impennato paurosamente il livello di CO2 in atmosfera e tutte le conseguenze che questo ha, e quindi la necessità di cambiare strategia anche nella produzione tecnologica, cioè non una tecnologia, diciamo, finalizzata all'aumento della produttività, ma una tecnologia che miri al recupero, al riciclo, al risparmio energetico e così via. La qualità della, qualità della vita, qualità della vita, vita, tutto questo. Tutto questo, insomma, in maniera da orientarli. Anche perché quell'altro comincia a essere come un vicolo cieco, anche dal punto di vista della possibilità di trovare lavoro, diciamo. Sì, no, no, è vero. Quindi questo, questo sono d'accordo. No, poi riguardo proprio a come muoversi nel liceo, ora non so, non vorrei deviarmi con questa, però ti volevo dare dei consigli. Il consiglio è, quando tu fai questo discorso, so insomma come ragionano, fa politica, no? Questo, come se la politica, come se non fosse tutto politica. Allora, questo discorso, ad esempio, non lo devi fare ad alcune persone, E il mio consiglio è di farlo così come lo hai fatto qui direttamente alla preside. L'ho già fatto. No, perché se parli. Come ti è sembrata? È molto ricettiva. Allora, benissimo. Per esempio, ho cominciato a parlarne con Nicola. Cardacci, sì. Era scontato. Però per dire. Però nei centri di potere, hai capito? Non parlarne con l'altro. Sì. No, perciò non volevo arrivare con queste cose. Certo. Perché se no loro dicono fanno il salottino. Però, sì, però è così. Questa settimana scientifica. O con la forte, hai capito? Perché io sento. Non ha senso, perché loro proprio dicono così, fanno politica, oppure io con una mia collega, perché dice bisogna dare le competenze, non... Perché una volta io dicevo questo, che secondo me studiare scienze o la scienza, se non ha un punto di vista, non serve a niente. Lei lo criticò proprio, ma proprio, sai, paonazza, proprio tutta agitata, questo... E poi disse sì, lo so che tu dai le competenze, insomma hanno un po' quest'idea, che se tu esprimi un punto di vista, ma questo sminuisce proprio l'insegnamento, perché l'insegnamento deve dare solo delle competenze, solo... Quindi ti trovi davanti a questa cosa. E del resto basta parlare anche con i ragazzi, magari se tu dici diminuire i consumi ancora sia, se poi magari dici è una critica al sistema capitalistico, allora no, non, e questo non bisogna dirlo, lo capisci, hai capito? Perché invece, però dove siamo noi ora? In un sistema capitalistico, e questo secondo me sono le conseguenze. Tu che cosa pensi, Roberto? È così? Perché tu sei più giovane, i giovani non sono di un'altra... No, ma lo supera. Non mi ricordo, è una cosa molto interessante, no? Illuminante, no? Mm. Obbedire non è più una virtù. Mm. Quando bisogna disobbedire, esistono delle fasi storiche in cui la disobbedienza ha portato delle cose straordinarie. Gandhi la utilizzò proprio per liberare una nazione. Qui c'è un fatto, c'è una generazione che è troppo attaccata ai ideologie del passato. Lo so. E capitalismo. Però da un certo punto di vista bisogna rendersi conto e far rendere conto le nuove generazioni soprattutto, che il futuro è il loro. I genitori sono il passato, sono la morte. La morte dei genitori sarà il loro futuro. Però se loro seguiranno le orme dei genitori con i modi di vivere capitalistici e consumistici, per loro non ci sono. Quindi vabbè, su questo siamo d'accordo. Questo, e ovviamente si forniscono i dati per chi è innamorato della scienza, eccetera, eccetera, però quella che è diventata paonazza, bisogna dire una cosa, cioè la soggettività, già chi decide cosa insegnare, no? Che già insegnare scienze, potrebbe anche insegnare a come bere il vino o a come spazzare il pavimento, che ne so, c'è una decisione a monte, non puoi dividere, no? Quello che si insegna da quello che decide cosa insegnare. È chiaro. No, per dirti. No, perciò ti davo questa cosa di nella scuola di agire con cautela, perché. Sì, però credo che in fondo per tutti noi è importante uscire da una visione ideologica, anche dalla sì, posta. Sono d'accordo. Cose, no? E semmai. Semmai io credo che un obiettivo sia quello di sì, proporre le competenze, ma soprattutto fare in modo che siano gli studenti stessi a raggiungere le loro conclusioni, per quanto frammentarie, però il compito dell'educatore è quello di problematizzare, farli discutere e fargli raggiungere delle tappe che probabilmente anche tu come educatore non sai, cioè non è che necessariamente dici oggi si trovano nello stato A, io li porterò nello stato B. No, quello che io posso fare è guardare bene la situazione e farli discutere. Poi il mio percorso non è detto che loro devono riprodurre per arrivare in giustato. No, no, ma questo può darsi so. Che, anzi, può darsi che diciamo tantissime cose a cui non ho pensato, magari se uno lascia i gradi di libertà che necessari, loro arrivano a concepire cose a cui io non posso pensare. Io quello che ho, sì, trasferisco delle competenze, in questo caso è proprio una trasmissione di competenze, nel momento però in cui io gli dico, per esempio, a proposito di risparmio energetico, un problemino di base che faccio fare è sempre, ma come mai c'è della gente che compra la lampadina che costa 10 euro quando promette la stessa quantità di luce di un'altra che costa 1 euro? Ma c'è della gente che insomma, tra i due scaffali sceglie quella a 10 euro, quella a 15 euro, è fessa. Dopodiché viene fuori tutta la discussione, fanno i conti e si accorgono che comprando una lampadina che come prestazioni sono le stesse, risparmiano 60 euro. No, questo li colpisce ed è un dato di fatto, utilizzano la competenza che è la capacità di fare i conti, di utilizzare il concetto di potenza, eccetera, eccetera. Dopo li faccio ragionare, perché c'è sempre qualche ragazzino, se hanno oltre a dirti, che poi tu puoi chiedere quali sono i vantaggi, non è detto che vengono fuori, ma c'è chi ti dice, ma così si inquina meno, e poi puoi insistere, se si inquina meno che vantaggio è? E così via. Cioè inneschi una discussione, una riflessione in loro, che poi si può trasferire ad altre tecnologie. Sì. No, ma di questo ne sono convinta, era giusto per dirti che non è secondario. Non c'è nulla di ideologico, in senso. No, lo so. Diciamo che collettivamente bisogna imparare a fare delle scelte. E la forza di queste scelte, diciamo, sta anche nella capacità di vedere esattamente come stanno le cose, al di là dei fumi, diciamo, di carattere ideologico, cioè, non sceglie solo per, soprattutto ora, insomma, dobbiamo essere venuti da questo, fuori da questo da questa cosa. Vincolo sì, che sì. Sta tra lo scegliere la prima o la seconda via, o piuttosto la terza via, no? Cioè la via del capitalismo, quella del comunismo. All'incontro della riuscita del sabato sì, c'è stata un po' questa riflessione sul comunismo, sul capitalismo. Perché sì. E, cioè, è stato molto breve perché avevano tutti abbastanza le idee chiare, nel senso la decrescita è una cosa che non viene a contrastare né il comunismo né il capitalismo, è un nuovo modello, cioè non prende niente né dell'uno né dell'altro, non difende l'uno né l'altro, è un nuovo modello, e questo è che vogliono cercare di costruire in questi incontri. Lo scopo è costruire un nuovo modello, che perché sia capitalismo o comunismo comunque si basano sullo stesso ragionamento dell'aumento della produzione, sì. Per sentire e per altri. La centralizzazione. Mentre la decrescita parte da tutt'altro ragionamento, è una cosa a sé, non interferisce con nessuno dei due. Non è contrario, è opposto. Non si contrappone, ma si propone come nuovo modello parallelo che Sì, però che sia antitetico però deve essere chiaro, perché presuppone la partecipazione. Noi tutti questi progetti ci interessano perché c'è la partecipazione delle persone, non si possono realizzare se non c'è la partecipazione diretta delle persone. Per esempio i rifiuti di cui si voleva parlare stasera, la raccolta differenziata ad altissime percentuali si realizza un coinvolgimento pieno della popolazione, no? E spesso la popolazione stessa che riesce ad auto-organizzarsi. Quindi c'è processi di auto-organizzazione sociale, per cui che in qualche modo sono mediati tra l'altro dalla rete, che è lo strumento nuovo che abbiamo a disposizione. che aiuta, coagula in qualche modo, no? Tutto questo, su piccola e su grande scala. E poi tutti i processi di autoproduzione, e volendo anche dal punto di vista, in molti casi anche la, diciamo, la cooperatività è importante. Uno può pensare come un retaggio del comunismo, ma non è, di fatto non è così, cioè si tratta di, e qui nel comunismo c'è la pianificazione su grande scala, è quella che in pratica è imposta, mentre qui è una, diciamo, un'auto-organizzazione locale, tenendo presente la situazione globale, della gente che si organizza anche all'inizio anche semplicemente per difendersi, no? Per trovare un'altra strada, ma e questo pian piano fa emergere un altro modo anche dell'organizzazione sociale, ma anche politica. Cioè, questa diventa una cosa interessante, quando ci interessa, non so, Schonau, perché lì addirittura diventano proprietari gli abitanti di un piccolo paese dei mezzi di produzione dell'energia. Sono loro che l'hanno concepiti, ma ne sono i proprietari. E questo cambia le cose completamente. Una casa non è più soltanto un luogo di consumo, ma anche un luogo di produzione. Sì. La rete che ridistribuisce l'energia è una rete che topologicamente assomiglia alla rete di internet, no? Cioè ci sono tanti piccoli e grandi produttori che si scambiano gli eccessi di produzione e diciamo anche quando ti manca l'energia la devi poter prendere, quindi c'è tutto un flusso di energia che somiglia molto come ridistribuzione a quella dell'informazione. Sì, questo appunto è un sono mondo delle nuovo. Cose, è un mondo nuovo. Sì. È un mondo nuovo che deve emergere, ma presuppone per incoraggiare una democrazia diretta, una organizzazione sociale. No, io dicevo prima così parlando che la situazione in cui ci troviamo, però non ha molto senso una disquisizione, è dovuta secondo me a è la conseguenza del capitalismo. Perché no? E viviamo in una, però è una cosa molto. Ma perché magari non ci interessa più, no, perciò ti dicevo. Perché lo notavo, se parlando ti viene fuori, no? Ti scappa, allora vedo che c'è una perplessità. Certo. Se tu parlando di queste cose parli di contrapporsi a una società consumistica, tutti ti ascoltano così. Se però, proprio fatto, parli degli effetti di questa società che è arrivata a questa produttività così esasperata e che questo è un effetto del capitalismo, vedo che le nuove generazioni rimangono perplesse, ma perché lo vedono come un eccesso, come diceva lui, di ideologia, ma sai, non è un voler dare le colpe, quindi è un fatto superato, lo so, però ecco, era giusto perché poi bisogna sapere che termini usare, hai capito? E quindi... Ma l'idea è quella lì, uno fa una proposta, insegnare credo che significhi proprio... uno schizzo, no? Cioè, non è che determini quello che devono pensare i ragazzi. Francesco per me ha delineato bene diciamo, il compito dell'educatore, dell'insegnante, anche alla luce delle moderne teorie epistemologiche e filosofiche mettono molto l'accento sul compito costruttivo della persona nell'immaginarsi la realtà e crearla. Quindi diciamo, spetta agli studenti crearsi diciamo, dei modelli viabili di realtà. Tanto per inciso anche i numeri, sembra che non nascono come... non li porti la cicogna i numeri, ma è un preciso meccanismo della mente che fanno gli studenti. Quindi. E questo è un po' si sono occupati di questo. Semplicemente sì. Magari qualche genitore, magari fissato. Ovviamente i genitori, sì, ma a me sarebbero una forza enorme da coinvolgere, che è tenuta ai margini, in disparte, quasi rifiutata, quasi la, insomma, gli insegnanti in qualche modo li tengono fuori. Non c'è vera democrazia a scuola. Cioè, cosa significa? Che c'hai due genitori che rappresentano tutti gli altri, non si incontrano mai, che e quando ti arriva il genitore in qualche modo è, bisognerebbe rivoluzionare. No? Sì, vabbè. Io per ora ho fatto pochissimo, c'è una classe in cui sono coordinatore e quello che ho proposto era la mailing list tra i genitori, perché si scambiano le cose. Però, e poi ho sempre detto a tutti, dico, ma sarebbe bellissimo se invece due rappresentanti dei genitori, ma venite tutti. Che venissero soprattutto gli studenti, cioè che fosse veramente un vero consiglio, non finto, sì, in cui ci si può dire le cose, sì, altrimenti questa democrazia finta si estingue, cioè va a finire che tutti pensano che i consigli di classe non servono a niente. Perché? Perché sono finti, sono ripari, il linguaggio diventa stereotipato, no? E si impara a non dire la verità. Ed è solo la verità che può cambiare le cose. Il ragazzino si alza davanti a tutti, racconta quello che magari subisce a scuola, davanti a tutti, le cose cambierebbero. Invece tutto il sistema è fatto in maniera tale da tenere a bada questa grande potenzialità di cambiamento che hanno i ragazzini in età adolescenziale, che per loro natura trasgrediscono. Sì, sì, è vero. Cioè fa parte quasi della possibilità evolutiva che ha il mondo, no? L'adolescenza è caratterizzata da questo, invece vengono tenuti lì. E i genitori avrebbero un ruolo enorme, magari tanti hanno anche una disponibilità di tempo, eccetera, vengono tenuti ai margini, insomma. È stato un grande passo quello dei decreti delegati, però. Sì. Tant'è vero che bisogna abolire i consigli di classe, di nuovo la scuola deve diventare scuola, insomma tutti i criteri aziendalistici di direzione aziendale dall'alto, stanno facendo parte del modo di concepire la scuola. Ma sì, quindi questo un modo di scatenare, diciamo, questo stato di cose. Che sta succedendo? Ma si diceva dell'ordine del giorno? Sì. È uno di questi. Questo era. Ma a te va bene così o questa modalità di partecipazione? Secondo me sì. Quindi parteciperai tu a questo? Sì, sì. Ah, per quanto dicevi non so, magari se è troppo pesante, perché tutto il giorno magari trovare qualcun altro, non so se tu di pomeriggio sei impegnato. Hai detto è dalla tra 4 all'8. Però secondo me tu sei la persona più indicata. Sì. Come disposizione, cioè la mattina non possiamo. No, ma proprio come hai capito proprio che loro individuano una persona e non sì loro non cambiabile, se loro hanno una persona, come hai detto prima, sì una persona, una persona di te, anche perché insomma sei un fisico, sì, no perciò proprio come competenze, come tutto, poi come come background culturale. La proposta non proprio così, questa proposta va bene perché c'era il patto del finanziamento, se non possiamo finanziarti te lo diciamo, però se lo vogliamo... l'unico mio dubbio era... Scrivilo se tu preferivi questa cosa, magari poi chiaramente. Poi magari diciamo sì, però non possiamo, però se no si pensa, insomma... Perché se uno tipo... collabora con loro, bisogna vedere loro cosa chiedono, perché la collaborazione può essere avere tante componenti. Uno può stare lì, prendere appunti e poi documentare, sbobinare, fare. Allora uno ha la possibilità di seguire tutto, quello che vuole. Però può essere anche andare all'aeroporto e prendere le persone, montare palchi. Cioè, sì, proprio della... è proprio, lo ha detto, andare a comprare i pasticcini, perché loro utilizzano anche i pasticcini. No, è vero, è vero. È cosa che non conviene, perché me li mangio mentre vado. No, non ci credo. Se vedere. Volete dopo, volete un po' di cioccolatina, un po' di cioccolata. Sì, voglio. Aspetta, vediamo. Questa qui c'è al peperoncino fondente. Aspetta, ora non so perché quella da dove venite un po'. Allora, prego. Sì, va bene, allora. Certo, questo è un ragazzo che se la sa vedere nella vita. Io non ce l'ho pensato che c'era anche questo. Sì, giustamente. Bisogna immaginarsi tutti gli scenari, come facevano i tipi di Termini. Tutti gli scenari. Andiamo qua. Beh, questa storia della scuola. Noi sto vedendo un po' whisky e train, perché quindi magari mi faccio influenzare. Comunque, però poi c'è questa cosa, dai, un po' al peperoncino, c'è questa cosa che mi incuriosisce, no? Allora, molti mi hanno chiesto che c'è di male nella televisione. No, ma poi arriviamo a scuola. Cioè, il fatto che se uno utilizza un certo linguaggio, utilizza determinati argomenti, tu puoi scegliere nel merito se aderire o no, però l'argomento di cui parli lo decide un'altra persona. Se questo è uno che ha potere e ha la possibilità di bombardarti unidirezionalmente con questi argomenti, la tua vita è vincolata fortemente. Anche a scuola il linguaggio cambia, utilizzano i modi di chiamare tutte... gli schemi di valore con cui si giudicano gli studenti, eccetera, eccetera. Quindi magari è utile cambiare il linguaggio con cui si chiamano le cose. Prima cosa, invece di chiamarli rappresentanti, si chiamano coordinatori, facilitatori, enzimi, se vogliamo dire, catalizzatori. E avere coraggio nel cambiare, diciamo. Magari in altre lingue si utilizzano altri termini. E magari si chiama dirigente. Si chiama dirigente. Magari il problema sta anche lì. Le lacune si chiamano debiti. E ogni volta debiti, i crediti, i debiti. E magari l'azienda. E magari il dubbio sta che quando si evoca una parola, si evocano dei pattern che con la scuola non c'entrano niente, però la mente li assimila come vicini. E le conseguenze sono negative. Poi un'altra cosa che si potrebbe mettere proprio come una specie di teoremi, no? Sul concetto di funzione e sul concetto di bisogno. Uno per esempio ha bisogno di bere. E il bene è l'acqua. Però uno magari comprando la bottiglia, il valore di quella bottiglia è al 90% altre cose, inquinamento dovuto a trasporti, dovuto all'incenerimento della bottiglia, eccetera, eccetera. Quindi, e anche e soprattutto riguardo a quello che noi consumiamo, spesso basta pensare a un bisogno primario che è quello di mangiare, ma perché molti sono obesi, perché forse il cibo non sopperisce più a quella funzione di sostenere biochimicamente il corpo, ma ha altri scopi, bisogno di realizzazione, bisogno di calmare, bisogno di distrarsi, bisogno di sentirsi apprezzati dagli altri. Questo si dice anche nell'importante lavoro dei ragazzi del MIT, fondamentale libro sui limiti dello sviluppo. Diciamo. Mentre le popolazioni povere hanno bisogno di mangiare, di bere, di respirare aria pulita, noi abbiamo altri bisogni, che sono bisogni di autostima, di realizzazione personale. Tutte e due molto importanti, però bisogna capire come soddisfiamo questi bisogni. Magari inquinare, prendersi un SUV, non è il massimo per realizzare il bisogno che si ha, quello stato di tensione che ti spinge a sopperire a quello stato di bisogno. Quindi magari comprare il SUV non serve in sé per soddisfare quel bisogno, si potrebbe soddisfare in altri modi. E utilizzando quel modo per soddisfarlo, quindi provochi incidenti, provochi traffico, provochi problemi di salute psicologica nella persona, perché aumenti lo stress, eccetera. E dire questo. No. Primo punto. E questo era il punto numero 3. Il primo punto è stato proposto, e io ho finito per oggi, non tocca a lei. Questo l'ho proposto io. Interessante che ma se no così diventa un po' episodico, no? Cioè, se facciamo proprio, o per gruppi come si era ipotizzato, che individuiamo un argomento e lo approfondiamo tra di noi e facciamo ricerca e arrivino poi riporta la volta successiva. Questo è il punto, un problema. Ah, sì. Perché se no sembra un po' casuale quello che sì, diciamo, perché dunque tu queste cose sono delle riflessioni che hai fatto in questa settimana delle... e quindi le hai poi si possono utilizzare esternate se no rimangono lì così estemporanee sì, possono... per esempio mentre lui parlava ho fatto venire in mente che in realtà scienze, corsi di educazione alimentare sono solo una cosa che magari tanti insegnanti di scienze lo fanno, così come un corso di educazione sessuale a scuola non ci sono, se non per la buona volontà di qualche insegnante di scienze. Sì. Dunque, educazione alimentare no, non c'è niente. Di educazione sessuale c'è un sessuologo che in seconda, di educazione, poi non è giusto dire forse educazione sessuale, fa educazione di relazione, però poi non ha degli scambi con l'insegnante di scienze, capito? Quindi sì, nella nostra scuola c'è questo discorso, c'è anche forse una funzione obiettivo, strumentale, come si chiama, che si occupa dello star bene, del benessere, e si dovrebbe occupare di queste cose qui, insomma, quindi di questi aspetti. Il problema dell'alimentazione forse qualche volta è stato affrontato, però anche qui c'è un po' di scissione, magari non so, lo affronta l'insegnante di italiano, quella di scienze, però magari sta facendo un'altra cosa, c'è un po' questa tendenza schizoide. Per quanto mi riguarda, no, vabbè, per l'educazione sessuale, quando so che loro faranno questi incontri, che poi vengono, però l'incontro è proprio con il sessuologo, sì, quindi vabbè, io insomma, scientificamente parlo di questo discorso e poi secondo me dipende dal rapporto che hai con la classe, certo. Il limite non è molto, anche qui appunto, il limite è molto sottile, non è solo, io parlo solo di scienze e non di altro, hai capito perché? Una cosa che noto, questo fatto dei ragazzi che vogliono essere rassicurati su quello che è normale, no? Allora, omosessualità, transessualità, eterosessualità, ecco, questa, la definizione di questo, di questa, fanno anche molta, molta confusione. E poi hanno confusione, ora anche il terzo liceo, ad esempio su questi termini ovulazione e fecondazione, loro non lo sanno ancora, molti di questi, soprattutto i maschi, vabbè, e questo si può anche capire. Vabbè, quindi tutto quello che tu dici, che fa la scuola su quello che riguarda proprio la vita, lo stare bene, ma qualcosa fa, ecco, secondo me. Che ci può essere la possibilità che la scuola è un ambiente in cui si cresce. Dubbi, perplessità di questo tipo potessero venire fuori, emergere, e i ragazzi potessero trovare una risposta. Sì. Anche, diciamo, in cui semplicemente queste domande potessero venire fuori e trovare una discussione, una ricerca da parte. Come no? Io vedo pericoloso anche il fatto che arriva l'esperto. Infatti, è vero. No, però questo, ecco, però l'esperto si pone bene, che io sappia. Infatti non chiama educazione sessuale. È chiaro che puoi dare informazioni anche ben precise, eccetera. Come no? È chiaro che poi ci sono domande più complesse. Come no? Sì. Comunque, solo per dire che tutto questo è un aspetto che noi possiamo esplorare anche dal punto di vista della decrescita, come proponeva Roberto. Sì. No? L'obesità ora è un problema anche che riguarda non solo gli adulti, ma tra l'altro spesso i bambini, in maniera sempre più crescente, anche i bambini. No? E quindi è un discorso che potremmo affrontare, che ha a che fare tantissimo con la decrescita. Ed è fortemente riduzionistico e semplicistico demandare tutte le responsabilità e le colpe a McDonald's, eccetera, eccetera. Anche nei paesini dove non ci sono McDonald's. È vero, non è un problema alimentare comunque. Sì. La soddisfazione di altri bisogni. Sì. La noia. E poi le multinazionali sanno che piacciono le fritture, piacciono determinate cose, determinate schifezze, e preparano il tutto. Sì. Però insomma, appunto, è un problema complesso. È complesso. Sì. Però ecco la crescita, guarda, perché il termine di sobrietà, hai capito? Rientra un po' in tutto, che poi è quello. Appunto. Ma alla fase. Se... Allora, in un caso come questo, noi come gruppo potremmo dire, ci sono due persone che, una o due persone, di grande le forze che abbiamo, che individuato, diciamo, fa una ricerca un po' a 360 gradi per vedere tutti gli elementi, gli aspetti, cercare di vederli un po' tutti, e poi ci si propone questa coppia di persone, questa persona in relazione agli altri, si può immaginare anche utilizzando materiali audiovisivi, una presentazione in PowerPoint, o semplicemente viene e racconta oralmente quello che ha trovato. E questo può essere il punto di partenza, perché noi come gruppo acquistiamo consapevolezza e soprattutto troviamo anche delle possibilità di azione, appunto nel contesto in cui viviamo, dei quali è la scuola, perché io e te lavoriamo in una scuola, non solo quello. No? Sì. Sì, quindi tu dici che il primo punto è la conoscenza, cioè il gruppo si propone di conoscere, di studiare. L'analisi dello stato delle cose, sì. Io sono d'accordo su questo. Cioè, su vari argomenti. Non so se questo, perché per me, io lo vedo come esigenza, e secondo me è già molto. Infatti, il dubbio che mi era venuto, che forse, non so, Margherita lo vedeva un po' limitativo, vabbè, non c'è qui, perché questa perplessità, se ci fosse stata, ecco, questo gli avrei voluto dire, che queste due riunioni che lei ha visto un po' inconcludenti, no? In questa... Ma io avevo bisogno però di una... Io non le ho trovate inconcludenti, dipende a che punto sei... perché, ecco, perché in ogni caso... mi sono servite da stimolo per rivedere tante cose, perché anche per conoscere nuove cose, molte cose le ho conosciute anche in queste due settimane, magari non le ho ben riorganizzate perché ho letto, poi chiaramente si fanno tante altre cose, quindi, però ho incamerato molto, direi non in modo confuso, ancora non confuso, però non le ho ben sistematizzate, ma insomma ci ho pensato, ora oserei dire anche un po' a livello esistenziale, per dirti, quindi non penso che sono stati incontri inutili, poi ne ho parlato, insomma, poi sai, magari facciamo tante altre cose, quindi ti fanno un po' da sfondo durante la giornata, alcune volte non leggi niente, il giorno dopo leggi di più, quindi insomma, però su questo ci si può intendere, secondo me, su come organizzarsi, su come, e secondo me la conoscenza, lo studio sono una fase importante, poi dopo questa fase come procedere, sì. Anche perché studiando molte cose, ad esempio io ti avevo detto di rifiuti, no? Proprio ripensandoci, non so se volevo dire proprio i rifiuti, tipo la raccolta, mettiamo qui, non volevo dire questo, le lattine qui, anche quello, no? Quello bisogna saperlo, quasi come cosa di base, come prerequisito. Però volevo fare forse anche un discorso più approfondito, insomma. Sì, se io vorrei fare un esperimento, diciamo, sì, che è questo, siccome ho un file ma dura 5-10 minuti, e è una trasmissione, si chiama Radio 3 Scienze, e parlano dei pannolini lavabili. Allora, la proposta che faccio è questa, che l'ascoltiamo per 5-10 minuti, un po' come fosse la relazione di qualcuno di noi del gruppo. E dopo la domanda è, che vorrei che ci facessimo tutti e quattro, è a Pisa cosa possiamo fare per promuovere ulteriormente, perché già so, all'interno del gas, che però è sempre un ambito ristretto, no? Cioè, il gas è una cosa di cui la gente ha parlato, noi possiamo, Pisa è molto più grande del gas, cioè non possiamo dire che tutto ciò che è il gas è. Cioè, la domanda poi è, dopo aver ascoltato questi 5-10 minuti, noi a Pisa, rispetto a questa cosa molto piccola che riguarda i rifiuti, cosa possiamo fare relativamente ai pannolini lavabili? Cioè, come potremmo pensare di agire? Sì, sono d'accordo. Solo che volevo sentire da quello, tu hai partecipato a una riunione di crescita promossa da Gesualdo. Loro in effetti si danno questo tempo di riflettere su chi siamo in questa nave, cosa ci si fa, come sarà organizzata, come saranno organizzati gli incontri. Per decidere di tutto questo hanno previsto che ci si impegneranno per circa 6 mesi. Quindi va bene. Sì, va bene. Perché appunto ci si vede ogni 15 giorni, siamo in tanti, c'è da pensare a dov'è lo scopo. Non è una cosa piccola, cioè lo scopo. Non è facile. E non è semplice, non è così scontato, non è così. Cioè, ognuno ha bisogno di confrontarti con gli altri su quali saranno gli argomenti, quali saranno i modi di fare, eccetera, eccetera. Non è una cosa scontata. Per cui loro si sono dati proprio tanto tempo per costruirsi. Quindi è per cui interessante questo. Sarebbe interessante chiedersi quali sono le modalità, diciamo, più fisiologiche della crescita di un gruppo. Cioè, essere tantissimi all'inizio è un vantaggio, uno svantaggio, oppure semplicemente se siamo in tanti all'inizio qual è il giusto modo, il modo, diciamo, più fisiologico per la stabilità successiva. Su questo ci hanno ancora da riflettere. Cioè, è interessante. Secondo me è un po'. Questo è vero. Il conto è se si è in pochi. che trovare la modalità per un gruppo nascente in cui sono poche persone che interagiscono e invece tanti, insomma. Però è interessante che si siano dati 6 mesi. Intanto già si è visto nel concreto che chi era potuto andare alle prime 2 riunioni non erano potuti andare alla seconda, e quindi già su un gruppo molto grosso si vedono già delle grosse difficoltà, perché comunque ognuno deve essere presente ogni volta. Che tipo di impegno è? Uno segue così casualmente o ci viene e si impegna che ogni 15, per fare questo deve rinunciare a tante cose, avrebbe potuto stare con i figli, avrebbe potuto fare tutt'altro, anche altre cose interessanti, però decide di mollare tutto 2 ore ogni, o 3 ore ogni 15 giorni e venire a partecipare, per cui è anche un impegno, è anche un... E questo per circa un anno, per ora hanno deciso di fare questa cosa anche per un anno, per cui ognuno ci ha da pensarci su. Poi una volta che ognuno ci avrà pensato su, e questo richiederà almeno altri 2 o 3 incontri, quindi un altro mese e mezzo, 2, per questo i tempi sono difficili. Certo. Per cui loro si sono dati questo tempo. Poi c'è anche lo scopo. Lo scopo, ho visto l'altro giorno Margherita, purtroppo non c'è oggi. Lei c'era anche lei questo. Che no, però ho visto che l'altro giorno lei aveva molta fretta di entrare nel concreto, nelle azioni concrete, però magari più a livello personale, forse è una cosa che lei stessa forse potrà trovare altri modi di raggiungere queste informazioni e applicarle. Mentre almeno loro nell'altro gruppo dove sono andata l'altro giorno si sono chiesti, ognuno viene da settori diversi, ha conoscenze in settori diversi, si sono chiesti, ci dividiamo in piccoli gruppi per approfondire questi settori diversi, oppure invece mettiamo tutto in comune, perché lo scopo di riunirci, appunto, ognuno venendo da esperienze diverse, forse lo scopo è appunto legare tutte queste cose e creare un modello nuovo. Magari approfondire, tutti l'hanno già fatto, ognuno nel proprio campo. Non ha voglia o tempo o di approfondire ulteriormente, l'ha già fatto. Cioè, perché uno che ha già approfondito un tema dovrebbe approfondirne altri 100? È impossibile, è assolutamente impossibile. Per cui forse lo scopo del gruppo è appunto di legare queste esperienze, queste persone che sanno bene di cosa parlano, di una cosa precisa, legarli insieme per creare questo nuovo modello. Quindi loro hanno già, alla seconda riunione, quasi escluso l'ipotesi di fare dei piccoli gruppi, ad esempio, perché appunto hanno ritenuto che l'interesse del gruppo era mettere insieme, perché appunto non avrebbe senso chiedere a ognuno di approfondire tutti i temi. È una cosa impossibile da chiedere su larga scala. Quando si riuniscono? In 15 giorni? Loro per ora, allora, l'ultima riunione è stata di sabato e hanno deciso quindi di rifarla di sabato tra 15 giorni. Quindi non questo, l'altro? Sì. A che ora? Dove? Alle 3:30 a Rebeldia. E anche questo hanno ancora da pensarci su, per ora stanno a Rebeldia perché per ora non hanno, sono di più i partecipanti che sì, fanno riferimento anche a Rebeldia. Credo che sia interessante anche per noi, insomma, via via confrontarci, vedere un po' come si stanno muovendo, anche dei suggerimenti, dal loro modo di muoversi, no? E poi cercare. Infatti per me è stato molto utile sentire questo ragionamento del mettere in comune invece di separarci di nuovo e di nuovo rifare ognuno un lavoro, certo, per conto nostro. nostro. E infatti, diciamo, una proposta in questo senso per me sono questi laboratori che noi chiamiamo laboratori maieutici, che potremmo sperimentare come gruppo, no? Ma lui sa di che si tratta. Però è una proposta che... Io ne sento parlare, ma in tutta sincerità non so. Sì, no, io leggendo ho capito, però insomma, sì, una cosa è leggere, una cosa è... Tra di noi dei laboratori maieutici. Ma questo magari poi ci dedichiamo. Ma la proposta che facevo prima può già andare in questo senso, sì, una sorta di laboratorio. Se noi ora ascoltiamo questa, come fosse la relazione di uno di noi, ascoltiamo questo, facciamo un piccolo esperimento tra di noi, vediamo se funziona. Nel senso, noi ascoltiamo questa intervista, si tratta di un'intervista, dura pochi minuti, e poi ci ascoltiamo a vicenda sulle impressioni, soprattutto ponendoci una domanda. Cioè, a Pisa localmente cosa potremmo fare di pratico in questa direzione? È un esperimento tra di noi. Forse tocchiamo anche il secondo punto che parlava. Vediamo cosa ci dice questo esperimento, insomma, per come muove. Era il secondo punto? Il secondo punto è discutere del tema rifiuti, tenendo presenti le relazioni con amministratori esperti, cittadini. Ah, tra l'altro è proprio è un'intervista a un amministratore. Allora la faccio sentire. Sì, come no. La facciamo anche ascoltare al registratore. Ah, vabbè, certo. No, dobbiamo buttare anche acqua potabile. Questo è anche inefficiente. No, però lì c'è, ci sono i riduttori di acqua quando uno dice. Sì, questo sì, sì. Radio Trescenza. Buongiorno a tutti dai disabilitatori a Penna, Vicino Cascio, Trescenza in onda questa settimana agli studi RAI di Bologna, 335-56-34296, il numero di sms per contattarci durante la diretta. Oggi è mercoledì 25 novembre, siamo nel mezzo, come già annunciato tanti giorni fa, della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, e di un rifiuto molto particolare andiamo a parlare, parliamo di pallolini per bimbi, pallolini usa e getta. Ci dicono che nell'arco dei 3 anni in cui un bambino utilizza appunto questi pallolini, ne vengono consumati circa 6.000 per ogni bambino, quindi immaginate quanto volume di rifiuti ogni famiglia con i piccoli appunto produce, e si tratta di un volume notevole, circa il 15% dei rifiuti non riciclabili nel nostro paese è infatti composto appunto da pallolini. Noi diamo il buongiorno a Luciano Manfredi, sindaco di Acquanegra Cremonese, buongiorno. Buongiorno. Ed è il sindaco di uno dei primi comuni che da qualche tempo, e le iniziative si stanno ora moltiplicando su tutto il territorio italiano, da qualche tempo promuove l'uso di pannolini invece sostenibili, riciclabili, diciamo pannolini che si possono lavare. Lanfredi, cosa avete fatto voi e come avete fatto questa campagna di informazione anche sul vostro territorio? Sì, siamo partiti nel dicembre del 2006. Abbiamo lanciato questa campagna che prevedeva un contributo da parte del comune pari al 50% delle spese che la famiglia doveva sostenere per l'acquisto di questi pannolini lavabili. Quindi con solo 250 euro la famiglia poteva garantirsi il pannolini per tutti i 3 anni di vita del bambino, quindi con un notevole risparmio economico, ovviamente alla notevole riduzione della produzione di rifiuti per terzi. Dicevate voi, nei 3 anni di vita del bambino, nei primi 3 anni, si producono circa 900.000 kg di pannolini usa e getta, mentre invece usando i pannolini lavabili la quantità di rifiuti si riduce a una decina di kg. Ecco, lei parlare di circa 300 euro, ricordiamo forse la cifra complessiva che più o meno una famiglia deve sborsare per appunto comprare i pallolini dei primi 3 anni di vita del bambino, sono circa 1.500 euro, quindi c'è una bella differenza. Però la differenza, naturalmente il motivo per cui siete partiti voi, anche molte appunto altre iniziative che sono poi, si sono poi diffuse in tutto il paese, è proprio l'aspetto della limitazione dei rifiuti, della quantità di rifiuti. Sì. È un ritorno al cibo, per così dire, Lanfredi, un ritorno al pallolino che si utilizzava 30-40 anni fa. Beh, diciamo che questi sono un pochino più tecnologici, quindi infatti prima di lanciare l'iniziativa ho voluto verificare che la cosa fosse, che la cosa funzionasse, perché proprio per non lanciare l'iniziativa che poi poteva essere ho ovviamente provando direttamente, non dico che non succede, ma sulla pelle della mia bambina, che la cosa poteva andare, perché appunto questi pannolini sono fatti con dei bottoncini, ci sono delle tambine impermeabili, quindi sono abbastanza pratici, ecco. Non è solo un'idea che ci rifà. Ecco, appunto, le volevo chiedere questo, lei quindi non fa solo promozione per gli altri, gli utilizzerete anche direttamente proprio sui suoi figli? Sì, io avevo avuto la notizia nel 2006 dell'esistenza di questi pannolini e allora non erano molte le ditte che potevano fornire questo tipo di prodotto, avevo contattato una ditta austriaca e poi questo mi ha dato riferimento di un negozio sul Trentino che voleva fare anche la vendita per corrispondenza, l'avevo comprato e l'ho fatto mandare proprio nel campione perché volevo sperimentare visto che allora non erano ancora molto diffusi. E mi ho trovato sulla mia bambina che aveva allora 5 mesi e dopo 2-3 mesi ho lanciato l'iniziativa, visto che la cosa poteva andare e che appunto il bambino, la bambina in quel caso lì, non aveva avuto problemi al sederino per arrossamenti, anzi poi ho visto nel corso degli anni che anche le dermatiti sono ridotte notevolmente. Ci sono parecchie sms che stanno arrivando al 335-56-34-96, ne leggo qualcuno e vediamo se riusciamo a rispondere prima che facciamo la freddi. I pannolini usa e getta sono soldi ben spesi e l'ambiente capirà. Avete idea di quanto possono essere comodi rispetto ai vecchi cilipà? Questa è Misa di Milano. Poi Carlo il Pontedera ci dice, avete considerato che si tratta di fare diverse lavatrici in più? Il calcolo l'ha fatto qualcuno? Quanta acqua si consuma per lavarli? Questa è Jane di Ivrea e ne leggo altri due velocemente. Da quando mio figlio ha 8 mesi usa i pannolini lavabili, tutti li considerano una pasta retrograda soprattutto all'asilo. E poi Monica di Lecce ci dice dove si possono comprare, chi non ha la fortuna di abitare in un comune virtuoso come quello di Aquarena Cremonese, come fa? Allora, intanto appunto, ricordo queste domande di Luciano Lanfredi, c'è effettivamente un risparmio per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, è stato fatto questo calcolo? Sì, si chiama risparmio in termini di quantità di chili, quello è evidente perché... Cioè, anche in termini di lavatrici? Allora, le lavatrici, diciamo che io ho fatto il conto quando ho lanciato l'iniziativa di quanta energia si consuma, di quanta acqua si consuma facendo... lavando questi pannolini e alla fine si consuma un pochino più acqua ovviamente, però dipende poi da quanti lavatrici si fanno in casa, se sono noi siamo una famiglia abbastanza numerosa, quindi questi pannolini possono essere inseriti senza problemi insieme all'altro bucato, non è necessario fare una lavatrice apposta per questi pannolini e quindi il consumo poi viene spalmato il consumo di acqua su quello che viene comunque utilizzato per lavare gli altri panni. Quindi alla fine sia a livello di costi che a livello di impatto ambientale sono sicuramente fanno risparmiare. Ecco, dove si possono trovare, abbiamo solo quest'ultima informazione che ci viene chiesta. Allora, si possono trovare adesso su internet, basta digitare pannolini lavabili, pannolini ecologici e ci sono diversi siti che vendono questi pannolini e li vendono anche per corrispondenza, quindi li fanno arrivare direttamente a casa. Li fanno arrivare direttamente a casa, ecco. Luciano Lanfredi, voi siete stati tra i primi proprio a quando l'abbiamo lanciato io non avevo notizie di altri comuni, poi ho saputo che qualche altro comune aveva già iniziato a fare questa a promuovere può dire proprio in pochi secondi il successo di questa iniziativa? Siete riusciti a portarvi dietro un certo numero di mamme e papà? Ma nel nostro comune in verità non tantissimi, abbiamo avuto molte richieste, perché poi quando abbiamo lanciato l'iniziativa era stata scritta anche il Corriere della Sera, ha fatto diverse interviste, anche radiofoniche così, e quindi abbiamo avuto tante richieste di persone anche da altri comuni, anche amici che abitavano in altri comuni con le attività. Nel nostro comune non tantissimi in verità, quindi circa un 10-15% delle mamme, ecco, non un successo enorme, ma insomma la campagna continua. Un'ultima domanda veramente al volo, da Guido, che dice: purtroppo l'asilo sono imposti in uso e getta, lei sindaco come fa? Nel suo comune ci sono asili che utilizzano questi parametri? No, l'asilo vita non l'abbiamo, so che qualche altro comune aveva telefonato perché volevano proporre il posto nel nido, quindi però lì diventava un po' più difficile. Comunque ci sono, probabilmente ci sono alcune esperienze di altri comuni che hanno cercato di introdurre anche negli altri video. Ecco, noi ringraziamo Luciano Lanfredi, sindaco di Acquanegra Cremonese, naturalmente l'interesse da parte di un sindaco di un comune, ci sono altri comuni che hanno aderito a queste iniziative, quello di ridurre proprio anche la gestione della quantità di rifiuti, e un'iniziativa sicuramente interessante, diciamo anche da tenere presente, diciamo, appunto della settimana europea per la riduzione di rifiuti. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero di SMS. Diciamo che ci è venuto in mente come si potrebbe fare a più. Io credo che la più indicata sia. Io lo conosco. Io sono la ultra esperta in materia, per cui mi fa piacere. Ultra esperta nemmeno più di tanto, perché per mia figlia ad esempio non ce l'ho fatta. Però, non ce l'hai fatta. Però appunto questa è una cosa. Che appunto mi permette di farne un'altra. Di fare un per riprovarsi. Non possiamo per quello. Per quello. Io non dici che l'hai fatta. Se non è sapere un giorno. Però appunto io ho più. So quali sono gli ostacoli e perché non più del 10-15% delle mamme lo hanno chiesto. Un po' perché per cultura, che ci si rimette a lavare i pannolini, a toccare la cacca, già intanto per questo. Poi se molte mamme sono come io sono stata nei primi mesi di vita di mia figlia, non ce la fa né il tempo né la forza. Quindi queste cose sono comunque tre cose: il tempo, la forza e la cultura che dice. Insomma, verissimo. Sono tre cose molto forti, molto che impediscono di. Per cui a livello personale bisogna essere molto molto molto molto convinto per fare questa cosa. Un incentivo può essere un aiuto, per un incentivo economico per acquistarli non mi sembra nemmeno la cosa più giusta, perché appunto costano 300 euro e in confronto 1500 per comprare gli usa e getta, per cui non è un problema di soldi, perché già si risparmia anche comprandoli a prezzo pieno, senza incentivi dello Stato. Quindi dare incentivi alle famiglie non è la via giusta, sono già più economici. Quindi non credo che sia una buonissima idea, infatti hanno risposto comunque in pochi. Poi quei 10-15% che hanno risposto e l'hanno acquistato, bisogna vedere chi poi in realtà ce l'ha fatta poi a usarli nel quotidiano, cioè chi l'avrà comprato e poi sarà comunque passato agli usa e getta, perché non ce l'ha fatta. Bisogna quindi sempre vedere l'indagine scientifica, una piccola parentesi, sempre l'indagine, no? Il sondaggio, cosa hanno chiesto qui? La fonte, andarsi a leggere i dati. hanno chiesto quante mamme hanno comprato, quante mamme utilizzano il giorno dopo il giorno, per quanto tempo. Infatti, bisogna, cioè, è un campione di scelto bene. L'utilizzo reale e la durata, la quantità, insomma. Se fanno un uso misto, se fanno un po' un po', bisogna vedere tutto questo, quindi alla fine bisogna vedere se veramente c'è stata una riduzione dei rifiuti grazie a questo. Ci sarebbe una riduzione dei rifiuti se, e magari un interesse di tutti, se, secondo me, se negli ospedali e nei nidi tutti usassero i lavabili. Cioè l'ospedale e i nidi dovrebbero usare i lavabili. Uno, perché loro hanno già un ospedale, puoi sperare che abbiano già un servizio di lavaggio, cioè hanno già il servizio di lavaggio delle lenzuola in quantità industriali, per cui dei pannolini saranno solo una piccola aggiunta di panni da lavare, ma non incideranno su, cioè non saranno un problema. Hanno già dei servizi di lavaggio, per cui per loro è pratico. C'è solo il fatto che il personale si deve abituare ad usare quelli lavabili, quello sì, però il lavaggio non se ne devono occupare loro, perché c'è il servizio di lavaggio dell'ospedale, per cui è l'ideale. Poi per i nidi, anche lì, cioè, l'età per i nidi può essere difficile convincerli ad usare i lavabili, non tutte, alcune, ma non tutte. Poi il loro problema anche lì è il lavaggio, perché bisogna vedere come si potrebbero organizzare, quindi non è previsto un sistema di lavaggio. Nei nidi, non so, hanno dei lenzuolini che credo che abbiano forse una lavatrice all'interno del nido, bisogna indagare, però con questa lavatrice non si può far fronte alla gestione del lavaggio dei pannolini, per cui qui una cosa che potrebbe fare il comune è al posto, cioè per garantire il lavaggio dei pannolini usare quei soldi che sarebbero stati usati per comprare l'usaggetta. Quindi creare posti di lavoro per creare un servizio di lavaggio dei pannolini e cioè questo non crea un aumento del costo, perché appunto i soldi, i 1500 euro che sarebbero serviti per i pannolini usa e getta, invece li usano a questo punto per il lavaggio dei pannolini lavati, creando così il lavoro. Ma nei nidi i pannolini li compra il comune? Io so, sì. Io pagavo la retta, se pagavo la retta e era tutto incluso. Sì. Quindi il bambino che deve essere cambiato. I genitori non forniscono i pannolini al nido. Quindi è una spesa. Quindi sono pannolini del comune. Alla spesa. E tu dici, il comune potrebbe. Invece di spendere nelle usaggette. Quindi acquistare quelli lavabili e quindi usare per tutti. È una macchina che sia magari. È un servizio di lavaggio. Sì. Una persona che viene ogni pomeriggio a ritirare i pannolini da lavare e li porta alla centrale di lavaggio del comune che fa. E più da lavoro a qualcuno. Questo da lavoro almeno a una persona, almeno. No, veramente ottima quello che lei dice. E questo servizio di lavaggio che potrebbe essere messo in piedi per i nidi, alla fine potrebbe anche servire ai genitori che singolarmente vorrebbero, perché in Francia ci sono già due o tre esperienze di questo tipo, due o tre città in cui c'è un servizio di lavaggio. Quindi i genitori che volevano comprare pannolini lavabili, però non ce la facevano per ragioni di tempo, di forza, di stare in piedi, come ero io ad esempio, possono usufruire di questo servizio. Che qualcuno viene a ritirare i pannolini ogni tanto e li riporta puliti. Questo richiede forse di acquistarne un numero maggiore, perché ci vuole un ricambio. Insomma, se c'è un ritiro ogni due, ogni tre giorni, ci vuole un minimo di pannolini per reggere in quel tempo lì. Però può essere una soluzione, perché comunque la cosa più difficile è lavarli e asciugarli tutto il tempo che questo richiede. L'energia e l'acqua, Invece l'energia e l'acqua, appunto, se tutti sono lavati insieme, a questo punto diventa più... C'è un risparmio. Sì, perché si fa una macchina, si compra una macchina, una lavatrice molto più grossa, molto più adatta, magari, con dei sistemi per lasciare più adatti. Non lo so, bisogna vedere. Questo sì, perché se sistema per asciugare, non si sistema per asciugare. Cioè, ci saranno macchinari più adatti di quelli di casa, che sono tutto sommato molto... Sì. Ma a te ti è capitato di usarli? Io l'ho usati quando Andy aveva già 3 anni, perché poi anche questo, fino a 3 anni. Sì. Oggi i bambini, tanti, fanno ancora la pipì per un sacco di anni ancora. Abituati al pannolino, poi c'è anche questo discorso, c'è il discorso senza pannolino, è un altro discorso. Noi in Europa teniamo i bimbi con il pannolino, per cui li teniamo abituati a farsi la pipì addosso e levarglielo. Questa cosa qua diventa anche difficile. E lui ha continuato a fare la pipì fino a ora di notte. Io quindi ho iniziato a usare quelli lavabili per la notte. Poi l'ho levati e ho iniziato a lavare il mio. Infatti la cosa che dicevi prima con anche il mio figlio, proprio diciamo per senza pannolino, è il consiglio che veniva da mia madre. L'estate. Tieni senza pannolino. E non voglio di lasciare senza pannolino. Così acquisto il controllo, la percezione, la consapevolezza del fatto che arriva la pipì perché la vede. E si fa accaduto per un po', o addosso al giro, ma vedrai che impara presto, cioè nel senso della decrescita. Cioè non va, sì, sì, e lui è 2 anni e mezzo, senza nessun trauma, è smesso. Ecco, senza nessun trauma è interessante, perché se te dovessi dire questa cosa a qualsiasi psicologo, oddio, per esempio, ti hai creato un danno perché lui non era pronto, perché è provato che psicologicamente non è pronto, eccetera. Ora questo invece si sa che era uno della Pampers che aveva lanciato questa cosa. Come si chiama? La fase analisi. No, è proprio... No, in momenti in cui sono molto interessati. Ai ripieni, che sì. No, no, è un'altra cosa. Sì, comunque c'è una fase. Cioè, che no, no, è vero. In ogni tantra... Se mai, se il genitore, non lo sa, si scaraventa contro il bimbo, cosa fai? In ogni caso, i bimbi che portano il pannolino lavabile, se lo levano prima. Perché intanto sentono di più la pipì, non è assorbente come quell'altro che non fanno sentire niente, quindi sentendo acquistano una sensibilità più presto rispetto agli altri, quindi anche questo è una buona cosa. Se continuiamo, tanto in Europa penso che prima di levare i pannolini ai bambini ci vorrà almeno una fase di transizione. Se la transizione deve essere il pannolino lavabile, queste soluzioni, come dicevo io, secondo me sono quelle che avrebbero un maggiore impatto. Come al solito, l'esempio della comunità poi incoraggia il singolo, mentre se 2 mamme sono interessate, cosa riferisco? A me è sembrato strano fare riferimento all'acqua, no? Al consumo di acqua, perché in realtà nell'ipotesi ideale che il bambino impari a utilizzare da piccolissimo il gabinetto dovrebbe tirare l'acqua ogni volta, no? Cioè quando diventa grande e autosufficiente deve consumare acqua ogni volta che fa la cacca, per cui bisogna pensare a questo, che l'acqua la consumerebbe ugualmente. Tra l'altro un'altra cosa che forse la quantità è strano, che tu vai in Piazza Dante, no? Vedi la gente che per portare a giro il proprio cane o anche tenere il gatto in casa è disposta ad avere a che fare con le feci del cane e del gatto, per i bambini. Perché tu devi raccoglierle utilizzando il sacchetto e poi metterle, metterle via. In casa, se tieni un gatto, ci deve avere la lettiera, e se te ne scordi, perché quello è un impegno, insomma, chi ha avuto i gatti in casa lo sa, che dopo puzza e così via, devi cambiare, devi avere a che fare con 10 pipì o due vari, no? E mentre i bimbi è più difficile, cioè li, li mettiamo questo pallolino che deve renderli completamente, cioè i loro sì. Non si devono sentire, anzi deve essere un pallolino a grande tenuta, perché cioè, il bimbo deve poter contenere la cacca, sì, la pipì. Addosso senza nessuna percolazione, senza nessun trasudamento del pannolino, il più a lungo possibile, e poi magari vogliamo che non ci abbia le dermatiti, perché insomma deve essere un pannolino, miracoloso. Vabbè, ma No, è interessante quello che dici, non lo puoi proporre alle donne, no? Perché in effetti è una fase molto... È un momento troppo, è un momento difficile, troppo per aggiungere difficile. Un'altra cosa. E quindi posso capire che ecco, lo vivrebbero anche questo, insomma. Mi chiedete anche questo. Invece, sì, deve passare dall'asilo nido, dalla... Se passa all'ospedale dove sono nati... E poi può essere dopo, così, non per tutte, qualcuna magari più... sensibilizzata all'argomento lo può scegliere, però la proposta l'ha fatta non, non alle singole donne, quindi non cioè, magari dare la possibilità, dare questa possibilità, ma è chiaro che non, però io capisco che la maggior parte lo vedrebbe, ci chiedete anche questo, no? Perché infatti, è una fase particolare, si lavora si, molto. Si lavora e si fa, cioè, i primi tre mesi soltanto si sta in casa, se va bene, poi bisogna riprendere il lavoro, ma non è nemmeno la metà del caso delle mamme in Italia, perché secondo me più della metà lavora in proprio o in un'azienda familiare e non può nemmeno permettersi di stare tre mesi dietro al bambino. Sì. Per cui, cioè, e a questo è tutto, poi è una fase depressiva, ora gli ultimi fatti anche di cronaca, insomma, ti fanno capire proprio la solitudine in cui ti vieni per cui a trovare, questa no? Cosa, e farlo da sola diventa troppo... Sono, sì. Se c'è tutta una comunità dietro e un appoggio reale, allora... Sì, sono d'accordo. E anche molto su questo. E poi magari dietro alla comunità magari qualcuna lo può scegliere, ma proporlo così alle donne, secondo me c'è proprio un rifiuto di primo impatto. No? Ma io non so, cioè, no, io forse, l'ho tirato su io da questo punto di vista, nel senso che ogni volta c'era la cacca, ero io che lo cambiavo. E sostituivo il pannolino e lo lavavo e così via. Tra l'altro è un modo bellissimo di avere a che fare con un bambino. E certo, se la tua vita è ridotta a poco, nel senso c'è poco tempo per la famiglia, perché che ne so, lavori lontano, tuo figlio lo sta in un asilo, lo vai a prendere la sera, cioè anche qui ci sono. Chiaramente la discussione si allarga, perché se la soluzione è il pannolino usa e getta, che costi poco, che si può consumare, è una soluzione tecnologica che va nel lasciare le cose invariate, non vedere dove sta effettivamente il guaio, cioè il fatto che si lavora troppo, che le donne che hanno i bambini piccoli magari sono costrette a continuare a lavorare. Quadro molto più generale. È interessante perché dal pannolino... diciamo vengono fuori molte sì, no. Però che sarebbe bello magari tirar fuori sì. Poi perché c'è un aspetto importante che io mi ricordo che anche l'offerta che c'era di pannolini cioè c'erano dei pannolini che costavano tantissimo rispetto ad altri che costavano molto meno però qual è il costo effettivo del pannolino? Perché noi qui a Pisa abbiamo l'inceneritore che sta lì e oltre al cioè il vantaggio che abbiamo lì per lì poi diventa un inquinamento. Cioè, qui lui diceva il 15% dei rifiuti non riciclabili sono pannolini, perché un bambino di questi tre anni di vita in cui li deve utilizzare fa una tonnellata ogni bambino di pannolini che vengono inceriti. Questa è una cosa che viene occultata, nel senso che sono poi i bambini a respirarsi il loro pannolino incenerito. Sì, è una riflessione importante che va fatta, perché il pannolino non è riciclabile, quindi non possiamo metterlo nel... viene semplicemente incenerito per produrre energia che è l'altro tema. Per cui la domanda che mi faccio è come potremmo fare a promuoverlo, è stato detto negli asili nidi, negli ospedali, anche nei supermercati sarebbe interessante, poi dove altro? E perché promuoverlo? Cosa significa? Quali forme di aiuto cercare, come dicevi tu, insomma, per incentivare l'uso del pannolino e anzi ridurlo come è proposto? No? Perché insomma, sono aspetti importanti. Un pannolino, se lo devo lavare, posso pensare di utilizzare l'acqua che normalmente poi utilizzerò da grande, l'acqua che finisce nella fognatura. Dal punto di vista dell'energia, e se lo brucio, perché l'idea è che se lo brucio ricavo energia dal pannolino, ma qui viene fuori la questione anche del CIP6, no? Cioè, cos'è meglio? Che tipo di informazioni potremmo fare? Che è una questione che sembra semplice e che si risolve in 4-4. No, sì, no, sono d'accordo, perché informare che... Esplorando, perché io guardo, donna. Infatti, ecco, io sono stata colpita dalla condizione della donna. Sì, mi ricordo. Riguarda la condizione della donna, riguarda l'usa e getta. Appunto gli enti pubblici che fanno delle scelte che potrebbero, come lei ha suggerito, potrebbero essere virtuose, no? Potrebbe essere anche dare più lavoro ad altri e anche inquinare meno l'aria che i bambini stessi respirano. Insomma, ci sono un sacco di cose che sono tutte legate e che magari noi possiamo sviscerare e rispetto ai quali informare la gente semplicemente, no? Cioè, poi uno come la misura questa cosa, cioè andando a vedere quante persone, che anche qui nasce sempre il solito problema, che fa un gruppo sociale, magari uno potrebbe dire il pannolino se getta fa male, allora lo vediamo per legge, imponiamo, questa potrebbe essere una scelta, se tutti alla fine decidessimo così, uno dice vabbè abbiamo deciso che quello, mettiamo fuori legge quel pannolino. Oppure lo disincentiviamo, lo superiamo culturalmente e quindi in qualche modo incrementiamo l'informazione, la richiesta di pannolini lavabili. Allo stesso tempo avendo presente che, cioè fare anche una ricerca nel passato, mia madre per esempio quando vedeva che qua comprava i pannolini e io ci rimanevo male perché ogni volta insomma costano, il pacchetto costa 13, 14, 15 euro. E scocciamo a spendere tutti quei soldi, perché capisci il business che c'è dietro, che non è soltanto il business di quelli che producono i pannolini, anche dei distributori, e poi anche il business oggi è diventato dell'incenerimento, perché loro guadagnano, quelli che inceneriscono, società che inceneriscono, producendo energia, incenerendo i pannolini tra le altre cose. Perché incenerire i pannolini e ricavare energia dai pannolini è considerato l'energia da pannolino, la chiamiamola così, è considerata rinnovabile. Perché? E viene incentivata. E chi la paga? La paghiamo noi sulla bolletta, tanto che ti ricordi che ora c'è quella cosa della restituzione. Non bruciamoci pisco, non bruciamoci pisco. Non messo tra le targhe e noi paghiamo chi incenerisce i pannolini, ci avvelena l'acqua, abbiamo speso tutti quei soldi. Paghiamo anche perché loro stanno producendo un'energia da pannolino che viene considerata rinnovabile. E poi ci fanno tutte queste storie sul fatto lavarlo il pannolino, Ma io devo mica usare per forza la lavatrice per lavare il pannolino. Se imparare a che fare con la cacca del mio bambino, mica con la cacca. Cioè posso prima levare la cacca a mano. Chiaro. No, poi quelli che faccio una precisazione, oggi i pannolini lavabili vengono venduti con insieme un rotolone di carta molto molto molto molto sottile. Brava! È una membrana. Sì, che è una membrana. Che, ma molto biodegradabile. Biodegradabile che metti tra il pannolino e il sederino, sì. Che raccoglie praticamente. Se lo levi, lo butti nel vaso. E non c'è più la carta. E non c'è più la carta. Poi c'è la lavare. Non devi infilarlo in lavatrice. Chiaro. Perché devi infilarlo in lavatrice? Lo puoi lavare. Chiaro. Non ti devi riempire le mani di cacca. No, e poi se puoi lo disinfetti, puoi trovare un modo di disinfestazione non necessariamente chimico, insomma si può utilizzare. Si possono lavare insieme al bucato di canale. Questa cosa che è importantissima, lì non l'hanno detta per esempio. No, Grillo la raccontava, diceva che era una pellicola di mais. Ma è molto sottile. Ah, sì, questo sì. O uno potrebbe pensare, qui consultare quelli che utilizzano, che coltivano la canapa, sempre, perché la canapa è droga, no? Ma sì, sì. Invece che il mais, per esempio la canapa, un sottile strato di canapa. Sì, sì. E quindi questa diventa una cosa, secondo me, è interessantissima su cui lavorare. E comunque dei dati, se vogliamo, sì, se vogliamo fare un'informazione completa, una riflessione completa. Fare un'informazione così che è un incentivo anche per i supermercati, perché qui lui raccontava, Luciano Lanfredi, questo sindaco, raccontava che quando ha fatto questa prima esperienza, dice mi faccio mandare via internet. Però se pensavo di coinvolgere la grande distribuzione, facciamo allora attualmente la COP di Pisa c'ha il pacchetto pannolini Popolini. La Popolini era più la marca più diffusa in Italia, devo dire la più scomoda di tutte. Ah. E non si capisce perché abbia tutta questa da chiarire, ci saranno delle ragioni, ha un grande successo in Italia. Forse è una ditta italiana, Popolini, ha un grande successo, non molto giustificato dal punto di vista del prodotto, che non è molto pratico, devo dire. Ce ne sono molti altri che sono molto più pratici. Questa è una cosa. Ha molto successo, è l'unico prodotto che se si trova nei negozi è l'unico che si trova, sia al negozio biologico. E quello che si trova è quello peggio. Sì. Questo è interessante, magari. Disincentiva anche questo, perché uno vuole fare una prova, ne compra uno, si trova male e quindi decide di non usarli. Anche certo. Quello, cioè, se trova solo quel modello lì, in effetti si trova male per forza, secondo me. Questa è un'indagine che potremmo fare. Sì. Quali sono considerati i migliori sul mercato, già commercializzati altrove, perché. E quindi magari promuovere quelli, trovare un modo di promuovere quelli che la gente quando l'ha usati non è più soddisfatta. La gente, io ci metto anche l'acqua. No, ma soprattutto perché vuole dire. Non sono le mamme. Che, sì. Cioè non perché è vero che quella. Però anche per incentivare i babbi a occuparsi. Sì. Secondo me molti quando possono. Poi nel problema dei pannolini lavabili, che poi non trovi la babysitter che accetta, non trovi la tata, non trovi, insomma, l'asilo nido attualmente lo rifiuta. E quindi sì, questo a livello personale è difficile, finché a livello comunale non ci sarà politica di accettazione, anzi di incentivazione, non partirà. Sì. Però anche l'informazione, in effetti il pannolino inquina poi in realtà dall'inceneritore, forse può motivare diversamente, sì. No? Perché poi fai tanto per il tuo bambino così e poi inquini l'aria che respira, magari curi l'alimentazione, curi tutte queste cose, però poi non gli dai aria pulita. Forse questo sì, può essere. Mi ricorda la pubblicità che c'era in TV qualche tempo fa, si vedeva la mamma che cambiava il bambino e dietro buttava tutto nel box. Ah, sì. E diventava tutto un mucchio di rifiuti. Sì, ecco, sì, sì, sì, c'era una. Perché il box è il suo mondo. Sì, è interessante questo. Non ho più visto. Insomma, poi 3x5 fa 15, cioè 5 volte più cari, 5 volte più cari, ma solo come costo del pannolino. Poi in realtà questo dovremmo sommare altri costi, quelli della salute che ci dicevi. Della salute. No, la prima cosa che mi ha colpito era la condizione della donna, perché da qui in effetti si aprono tante cose, forse perché sono stata molto colpita da quella mamma che ha ucciso il bambino, insomma, di 3 anni, perché... E quindi pensavo alla solitudine, quindi delle donne, che poi è dovuta forse anche al poco apporto, ma non solo del marito, ma proprio di tutti, no? Perché prima i bambini erano i bambini di tutti, potevano, c'era tutta una comunità che li nonni, ecco. E invece penso che le donne sono molto responsabilizzate in questo momento. Allora, di fronte a questa cosa, capisco una donna magari in difficoltà, ma non perché magari deve lavorare, magari proprio perché non può lavorare, si trova in questa situazione, io ho delle aspirazioni in questo periodo, le devo trascurare, insomma, penso che veramente per una donna sia una fase difficile, dipende come ci arrivi, come se l'hai voluto questo bambino, insomma, però per molte è una fase difficile. E quindi, ecco, mi sembrava che darle l'aggravio del pannolino non era una cosa vincente, perché come dicevi giustamente, anche di fronte a questa differenza di costo, in quella situazione, ma sì, pago di più, poi non so che farò, ma insomma, ma compro il pannolino, perché questo è un modo per alleggerire la mia vita in questo momento. Anche se devo pagare di più, però non ho... Perciò proponevo più, diciamo, gli asili nido, però forse in un percorso diverso, se poi capisce... Siamo lì, poi è sempre la qualità della vita che è importante, no? Perché ti parlo della donna che si trova in questa situazione, non di quella che ha voluto una maternità contenta, felice. Allora, ecco, vede tutto in quest'ottica, anzi, magari tramite il figlio riscopre anche l'ambiente e tutto. E, insomma, vedevo questo pericolo, ecco. Ma poi io trovo che sia brutto tirar su un bambino... appunto di cucinare i pannolini che... se tu gli dai questa idea, se tu gli dai questa idea, sì, se sei da questo è proprio le bruciare e gli avvenimi là. La trovi prima di consapevolezza, perché quando c'è un bambino che sta crescendo, insomma diventa... Hai una visione fantastica, non di tutto. Sì, è brutto proprio, che proprio mentre lo stai tirando su, il pannolino lo bruci. Sì, sì. Lo so. Quindi già lì che lo stai tirando, vorresti già fare qualcosa per lui, insomma, ti stai trattando di... Sì, sì, ma questo un esercizio. Chiaramente non si può imporre, perché c'è questo fatto da tenere presente nel momento, però... Sì, ora anche come esercizio poi possiamo proporci di lavorare. Tra l'altro io ho tanti file così, che sono quelli di una trasmissione che si chiama Effetto Terra, in cui noi potremmo utilizzare in questo modo, però è chiaro che io ho un'urgenza che qui vi chiaro, no? Il metodo non è soltanto un esercizio, diciamo, intellettuale, se noi alla fine non riusciamo a essere fattivi, sì, lo capisco. Perché è importante parlare tra di noi, convincerci, assumere consapevolezza, significa anche acquistare energia per poi, questa energia è come se straboccasse dal gruppo e poi ci muoviamo anche fuori. In un caso come questo decidiamo esattamente cosa fare, come muoverci e potremo fare dei piccoli passi. Ma io dico, che se riusciamo a fare piccolissimi passi, nel momento in cui li facciamo, abbiamo un'energia di ritorno enorme che alimenta il gruppo. Se invece ci perdiamo questa possibilità, diventiamo autoreferenziali, piano piano sì, ci riempiamo, piano piano, per quanto possiamo essere interessati, motivati, eccetera, l'energia poi ce la dà fuori, altrimenti noi sì, è come se partissimo con tanta energia, un po' ci possiamo mantenere per un periodo anche lungo allo stesso livello di energia, ogni tanto possiamo avere la sensazione di salire, ma solo nel momento in cui usciamo fuori, quindi prima di uscire fuori è importantissimo, anche l'esempio che ci viene da loro, no? Cioè quei sei mesi che loro si sono dati, però a un certo punto dobbiamo proporci questo come obiettivo, cioè capire sì, cioè come uscire fuori, ma avere quell'obiettivo. Ora io lo sto chiamando, sto dicendo uscire fuori da... No, no, però è così, perché sei mesi per arrivare a fare cosa? Per piccole cose, insomma, ci possono essere delle cose... No, questa idea sua, secondo me è importantissima, sì, questa di agire a livello di amministrazione, di asilo, quello che lei diceva, cioè, ma è proponiamo. Se il comune, facciamo i conti in tasca al comune su quanto spende, andiamo a prendere i dati del comune, facciamo un progetto da presentare al comune stesso che diffondiamo, non lo dobbiamo dire solo al comune. Il comune risparmierebbe se darebbe lavoro a quanti, se invitiamo Ciacci di Opzione Zero di Capannoli, so che loro... quella dei sicuramente possiamo invitarlo anche per raccontarci come sono loro mossi loro nell'ambito di pallolini lavabili, per dire cosa sta facendo, quando sta risparmiando il comune, che strategie stanno utilizzando e così via. Sì. Insomma, che va anche nell'idea di riprendere il libro anticasta. Ma quindi sì, come ci organizziamo per la prossima volta? Dobbiamo stesso problema è quello dei piatti, delle stoviglie riciclabili, perché, cioè che non sono riciclabili, anche quello va tutto all'inceneritore, certo. Piatti, bicchieri, non so se ce ne sono alcuni, no sono sicuro, vabbè comunque ci informiamo meglio, infatti l'idea era se farne di riciclabili, capito? Se promuovere, seminarli oppure promuovere stoviglie riciclabili. Dunque, allora io mi ho provato. Dai, dici. Ho provato, quindi ti dico queste ultime cose, magari se vuoi continuare. Allora, per quanto riguarda il tetto terra, alcune le ho messe sul sito, si possono scaricare gratuitamente da lì, ma anche là sul sito di Radio 3. Su sta storia dei pannolini, qual è la cosa? Se si affronta in maniera, diciamo, riduzionistica, le persone trovano subito una soluzione con i soldi. Diciamo, io ho i soldi, io lavoro di più, privo il mio tempo, però ho i soldi e mi posso permettere di buttare soldi su sta cosa. Quindi, diciamo, bisogna stare attenti su come si imposta la problematica. Ben altra cosa se si coinvolge, se si agisce a livello sistemico. Cioè, io produco questi rifiuti, questi vanno a essere inceneriti. Io pago per essere inceneriti questi rifiuti. Questi rifiuti poi inquineranno la mia e la salute. Quindi è importante lavorare su questo. Poi ci stanno incentivi e disincentivi a livello di amministrazione. Un esempio tipico è quello di Londra con i parcheggi. Si costruiscono edifici senza parcheggi per fare in maniera tale che circolino di più mezzi pubblici, quindi si incentiva l'uso dei mezzi pubblici con abbonamenti gratuiti, si mettono le rastrelliere per le biciclette, eccetera, eccetera, ma ci sono anche i disincentivi. Far pagare di più, come si sta facendo a Pisa a breve, sperando che funzioni, chi butta più rifiuti paga di più. Quindi è qualcosa di più concertato e far rendere conto alle persone che non paghi soltanto i pannolini, ma poi paghi anche i rifiuti. Poi c'è anche il fatto che secondo me non bisognerebbe fare bambini, ma questo è un altro paio di mani. Oh, sì. No, l'ha detto proprio così. C'è il movimento dell'estinzione volontaria del mondo. No, perché dice ce ne sono già tanti. Occidentali, no, ho capito. No. Però la problematica è molto più complessa. Sì, cioè, bisogna capire perché facciamo bambini. Guarda. Perché si fanno ancora? Ma io sono per la stazionalità, basterebbe farne due perché non è il corpo. È un dibattito che si però, può diciamo, stare, insomma. Se il regime è la crescita, uno non è che dice io c'ho la coscienza apposta che faccio. Sì, sono convinta che devo rendere conto, ecco. Devo rendere conto che c'è uno che ne fa 5 o 6, quindi. Ah, io come provocazione la accetto. No, questo no, è molto interessante. No, bisogna fare bambini pensandoci, secondo me, perché non c'è la patente. Sì, insomma, vabbè, se uno ci pensa tanto, poi non ne fa più. Non lo so, su questo. Per andare al concreto. Allora, andiamo al concreto. Mi è piaciuto come l'ha detto, con lo stesso tono. Rinnovo l'invito di rendicontare e documentare per bene. Giusto. Ho l'audio, vedrò di pulirlo. Del rumore, di tutta la cosa che e quindi che dobbiamo e poi rendicontare per bene anche per chi è assente oggi. Io ho un altro documento che volevo fare vedere, che era di Margherita, ma visto che lei non è venuta magari presenterà lei meglio lo schema di azione di allora andando al succo. Io in genere metto le idee nel rendiconto e poi le proposte sono 5. Allora, comincio dalla numero 5, avere relazione con altri movimenti, questo sempre con lo scopo di non rinchiuderci, cercare altre collaborazioni, ma non perché già siamo qualcosa, noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, noi ci stiamo creando e ci possiamo creare insieme agli altri, non è che dobbiamo già essere qualcosa e dopo ci uniamo con gli altri. Seguirò la scuola delle rinnovabili, dell'economia, dal 4 all'8 e poi relazionerò e vedrò di collaborare con quattro gatti, se faccio qualcosa di decente lo pubblico anche sul loro sito. Quattro gatti e il sito sì, ho capito, economisti. Poi allora, c'è la proposta implementare ed estendere l'uso di questi pannolini lavabili. Allora, cosa si vuole fare? Si vuole creare questo sottogruppo già da ora e inizia a lavorare su questo, a raccogliere informazioni. O se siamo pochi anche come noi. Come siamo in quattro. Sì, dai, è inutile. E rinnovo l'invito di sentirci durante le riunioni. E poi c'è anche il fatto, è uscito fuori il sottogruppo sull'alimentazione, salute, bisogni, modi di vivere e di crescere. Questo è di sottofondo. Di sottofondo. Di sottofondo. È una cosa così. Perché è interessante. È un altro degli argomenti di cui. Magari un sottogruppo si può interessare a questo. Rileggi come l'avevi scritto? Sottogruppo sul tema alimentazione, salute, bisogni, modi di vivere e di crescere. Sì. Ma questo rientra in quello più ampio in cui in cui si auspicava di creare, di fare delle attività nelle scuole, con i ragazzi, con gli insegnanti. E tra di noi anche qualche esperienza di laboratorio maieutico, insomma, che già in questa fase, perché il laboratorio maieutico è, diciamo, porci degli interrogativi e poi cercare. Sì. Questo è già stato in qualche modo. Sì, secondo me sì. Anche il fatto di modificare, cioè, perché io appena l'ho sentito ho pensato una cosa, poi parlando ho modificato, ho ampliato, cioè mi è rimasto, insomma, un'idea di fondo, però ampliata. Noi, oltre ai ecoconti, possiamo pubblicare anche l'audio. Cioè, gli assenti, c'è anche un modo per gli assenti che volessero. Ah, ecco, ora per i bambini che facciamo concretamente? Decidiamo. Datemi un gruppo. Decidiamo durante la settimana se... Normalmente lo sento da qui, perché l'email l'ho visto che non è un pezzo. Ma io ho una settimana già tutti gli impegni del mondo. Allora. Sì. Rosa, vediamo. No, sto pensando io come... Se me va bene approfondire e trovare delle strategie di intervento, per me personalmente. Se poi c'è un interesse di qualcun altro, io ci lavoro volentieri perché ci ho già lavorato personalmente. Ma se siamo in quattro, possiamo lavorarci come gruppo così. Cioè cosa faccio io? Però cioè, avendoci già lavorato personalmente mi interessa appunto avere confronti con altre persone che magari vedono altri aspetti che io non ho visto. Sì. No, pensavo un po'. Qui chiudo.